No calles más. Empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. 21 de octubre, Día de la Radio Feminista. Radio Vallecas y Red Nosotras en el Mundo. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. Tantos años de condena, de tragar y de callar. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Allora torniamo in diretta e a questo punto diciamolo direttamente insieme: che cosa abbiamo ascoltato, che cosa avete portato dal vostro viaggio a Madrid. Marta e Zanzara sono qui con noi. Ciao. Martedì, ciao, ben trovate. Mi sa che è la prima volta che parlo durante il martedì. Ma non credo proprio. Non credo proprio, comunque, famo che è la prima volta. Emozione. No, dunque questi erano due spot, jingle, comunque si dice cugna in spagnolo, perché vengono appunto da Madrid, dove siamo state a questo incontro il 21 ottobre, che è stato il giorno della radio femminista, in Radio Vallecas a Madrid, e appunto dove abbiamo, adesso vi racconteremo, conosciuto un sacco di donne, un sacco di realtà diverse, una rete pazzesca, insomma, molto oltre le donne che abbiamo avuto modo di conoscere lì. E questa era appunto, c'era questa 24 ore di contributi radiofonici raccolti in giro per il Latino America e l'Europa, e compresi appunto quelli del martedì, e che è andata in onda, e quindi questo era lo spot che annunciava questa maratona radiofonica. In più appunto ci trovava lì a parlare tra diverse realtà, a chiacchierare. Sono stati, insomma, due giorni pazzeschi. Assolutamente, due giorni pazzeschi che hanno visto la maratona radiofonica della quale abbiamo parlato e che era curata dalla cosiddetta Area de Mujeres di Radio Vallecas, che è una radio che opera dal basso in Vallecas, che è un quartiere di Madrid, insieme appunto con il contributo anche di altre radio e principalmente, come avete sentito all'interno dello spot, della rete Nosotras nel Mundo. Noi nel mondo, per chi non capisse proprio nemmeno una parola di spagnolo, ma penso che si capisca abbastanza bene. Perché se no tutti gli spot che dobbiamo far sentire si capisce. Esattamente. E che è fondamentalmente una rete nata con l'energia di poche donne, tra l'altro una dimensione molto bella, dove tra l'amicizia e la politica delle donne che lavoravano prima insieme tutte nella stessa radio, ovvero proprio a Madrid e Radio Vallecas, hanno deciso invece poi, per trasferimenti geografici da questo all'altro lato di quella che viene chiamata la Pozzanghera dagli spagnoli, proprio per dire che poi l'oceano non è così grosso, esattamente, le connessioni sono forti, si possono creare e rafforzare, hanno deciso proprio di creare rete, e quindi di scambiare informazioni e di creare un vero e proprio palinsesto comune che va avanti tutto l'anno. Quindi in questa occasione si è trattato di una 24 ore che era la sua seconda edizione, la prima era stata in Austria, quindi anche con partecipazioni non solo ispanofone. Diceva prima Marta, c'erano anche dei contributi del martedì, ma anche dei contributi per esempio in tedesco. Anche un po' a sottolineare, come hanno fatto le compagne, che la lingua non è un ostacolo, non è necessariamente un ostacolo, e qualche volta comunque si sente anche quando si capisce poco, diciamo, fra donne. E quindi, come dicevo prima, questo progetto di collaborazione fra donne va avanti un po' tutto l'anno. Del resto, forse chi non molte persone stanno ascoltando in questo momento non lo sanno, ma in realtà il martedì ha già collaborato con questa rete. Con è caduta nella rete anche. È già caduta nella rete, esattamente, con un'intervista, lo puoi dire meglio tu, che fu fatta alcuni mesi fa proprio per la parte argentina, per Red Non Sottrarsi nel Mondo Cordova, dove appunto le compagne si interrogavano su che cosa succedesse nella grande manifestazione, se non ora quando, e forse in quell'occasione, io dico abbiamo perché insomma, ho partecipato. C'eri pure tu, conferma del fatto che non è certo la prima volta. E quindi anche per dare una visione che altrimenti fuori dall'Italia non arriva, sia per quanto riguarda proprio quello che succede nel nostro paese, ma sia anche per quella che è la vera opposizione. E quindi noi anche in quell'occasione, spero di non andare fuori tema rispetto alla nostra scaletta, abbiamo pure sottolineato l'importanza di un mezzo come Radio Onda Rossa e di un progetto come quello del martedì rispetto anche alle voci che si oppongono al governo stesso. Mi fermo perché altrimenti non faccio più parlare. No, a me io l'impressione, anche la bella sensazione di trasversalità è stato che poi le varie radio che avevamo alle nostre spalle, ognuna, erano anche radio molto diverse tra di loro. Direi forse che con l'esperienza della nostra forse ci sono solo delle radio via web. Sì, questa cosa è stata anche modo di dibattito, perché allora le altre incuriosite, per esempio, come può vivere una radio come la nostra, l'annosa questione che arriva sempre al dunque. Comunque l'appunto, la bellezza di vedere che comunque questa trasversalità, nonostante diciamo così la comunità del mezzo, al fatto appunto di non dover essere delle professioniste, di immediatamente avere bisogno di voler trasferire ad altre donne il proprio sapere. Usano tutto, è copyleft, quindi anche sul sito qualsiasi cosa si può usare, gli spot si possono usare, gli audio sono aperti, questo palinsesto che viene fatto, tutte le trasmissioni si possono scaricare e utilizzare, e credo che questo appunto è fatto anche appunto da una parte la visione del, non è una diciamo bisogno di produrre materiale radiofonico, ma è quello viene quasi da sé come un fiume in rotta, e poi invece c'è un grande lavoro su quello che è la trasmissione della capacità di mettere tutte in grado di farlo. Questa è una cosa bellissima che hanno dato immediatamente, nonostante poi ognuna di noi si trovava in una radio casomai diversa sotto tanti altri aspetti. Certo. Sì, sono venute fuori appunto le differenze sia per quanto riguarda l'organizzazione, perché venivano da paesi molto diversi, in cui forse noi eravamo un po' in mezzo, nel senso fra l'Austria e l'Argentina, per cui l'Austria dove c'è anche una certa burocratizzazione, perdonate l'inceppamento, ma anche una lotta diversa quando si parla di femminismo. E poi una compagna che era lì presente parlava anche per esperienza diretta delle sue lotte politiche di queer femminismo, quindi anche un passo in più. E appunto l'Austria è un paese dove la difficoltà sta più nel far capire delle forme, se vogliamo, più sottili, meno palesi agli occhi, di discriminazione e di oppressione, e quindi far capire a tanti soggetti che si credono liberati, che si credono di avere una vita tranquilla, che in realtà invece il patriarcato e l'oppressione esistono ancora, fino invece ad andare all'Argentina, dove i mezzi economici la capacità anche organizzativa forse sono più simili alla nostra condizione, forse mi permetterei di dire ancora più forti, esasperati rispetto a come stiamo noi, e in cui invece ci sono altre lotte da portare avanti, quale quella per l'aborto legale. C'è anche il discorso del linguaggio da fare veramente da zero, quindi anche c'era una compagna che sottolineava come fosse importante usare una serie di termini, però a volte lei usava la parola abbassare, forse però non rende troppo bene abbassare, perché semplificare io preferirei dire, proprio perché sul territorio c'è tanta differenza, ci sono le comunità guaraní dove le donne a stento padroneggiano lo spagnolo, oppure spostandosi ci sono altre comunità dove la parola patriarcato non si è mai conosciuta, per cui riuscire anche invece a far arrivare il proprio messaggio in una maniera molto semplice e molto orizzontale. Dopo un po' di giorni in Spagna mi sto confondendo, quindi, le due lingue, vabbè, benissimo, tanto abbiamo detto che si capisce. E soprattutto io trovavo una analogia molto forte con le esperienze che abbiamo fatto fatto noi e che continuiamo in parte a fare, forse più nelle zone periferiche o provinciali del paese, magari quando parliamo di Roma è già diverso il discorso, ovvero quello dell'accesso agli strumenti tecnologici e anche poi la padronanza dell'uso dello strumento tecnologico, nonostante io debba riconoscere che anche nei contesti nostri, anche fra chi fa radio da molti anni, in una radio come la nostra, c'è sempre la figura magari del maschio che dice adesso il computer lo sto aggiustando io, lo so aggiustare io. Però diciamo che lì secondo me è una battaglia ancora più forte, e io soprattutto da parte, quando ascoltavo l'intervento delle compagne argentine, trovavo moltissima analogia in questo, come anche nel fatto di dire noi non siamo delle giornaliste professioniste, siamo delle militanti che vengono dal movimento e che fanno le cose con il movimento e per il movimento. Sì, no, no, infatti è interessante, si è visto che avete parlato veramente di tutto, e il tema del linguaggio, della tecnologia, è chiaro che insomma interessano molto. Possiamo provare a dare, poi magari facciamo uno stacchetto e vi facciamo ascoltare anche altri due spottini, se vi va, un'idea della partecipazione, cioè quante eravate, dove poi avete visto Radio Valleca, per esempio, com'è. E, è fighissimo. Me l'hanno detto, però no. È bellissima, no, voglio dire, la nostra è stupenda. Come vi siete, che vi hanno fatto fare? Non allora siamo arrivati in questo quartiere, poi tutto in salita, e praticamente Radio Valleca si entra dal piano terra di una specie di grattacielo però fatto di mattoni rossi, per cui noi arrivando in questo quartiere, poi io e lei ci siamo separati, io dovevo arrivare da sola e chiedevo ma dove sta, che lei mi sa dire questa strada, tutti mi dicevano dove vedi la torre, dove vedi la torre, c'è questo palazzone che svetta, e loro sono a un piano terra dove avranno, non lo so, vabbè, stanze in quantità. Sì, tutta una serie di computer. E poi c'è una scala e si va su e ci sono altre stanze. E poi ci sono due studi, due regie, suona qualcosa, vero? Due regie, una più piccola dove appunto si registra, e quell'altra dove si va in diretta, il tavolo con ognuno le cuffie, quattro microfoni. Ci stanno scritte come da ci noi. Ci stanno scritte, sì, poi vi faccio vedere le foto, mi spiace. Un'altra caratteristica immancabile. Sì, ci sono scritte, ci sono adesivi, lì c'è una grossa partecipazione del quartiere. Radio Valleca è appunto, come diceva Zanza, la radio del quartiere di Valleca, che comunque insomma è un quartiere. E lì c'è una trasmissione, poi peraltro penso storica, di femministe, non so adesso in che condizioni è, poi mi dicevate forse ci sono due compagne comunque. Sì, ci sono due compagne, sì, sono, beh, insomma, diciamo, sono due compagne, sono grandi, insomma, si danno tantissimo da fare. Continuano. Continuano, assolutamente. Sì, sì, sì, sì, anzi, questa cosa penso le abbia molto anche rinnovato la spinta, cioè gli ha confermato l'idea che hanno avuto l'anno scorso, che come dicevamo è stata la prima maratona radiofonica, e quindi forse per loro era anche un po' un esperimento, comunque ci sono stati momenti di condivisione, appunto di festa, perché poi appunto già stavamo a Madrid, ma poi insomma sappiamo bene noi che tipo di feste riusciamo a fare, arrivano argentine con i secchi di mojito col mestolo, ecco, perfetto. Insomma, scene così. Tutto ciò in radio mentre andava tutto la diretta, mentre andava la diretta, loro sono fatte 24 ore chiuse, noi intanto fuori facciamo la festa, siete allenate, ma. Sì, sì, assolutamente sì. No, ma appunto dire due sembra essere riduttivo, cioè sono solo due, questo non è. No, no, sì, loro sono due. State, diciamo, la radice di un'esplosione di relazioni. Cioè, poi a Madrid, per esempio, sì, abitano molto tantissime donne latinoamericane. Comunque è una città, diciamo, forse da questo punto di vista, insomma, abbastanza avanti. Quindi sono relazioni di donne che si sono incrociate. Poi casomai ognuna tornava nel suo paese. Certo. Tant'è vero che, ripeto, la rete latinoamericana è proprio enorme: dalla Colombia al Messico, la Bolivia, l'Uruguay, l'Argentina. Il Cile, tutti i gruppi di donne che lavorano, producono cose, fanno radio. Loro hanno fatto questo incontro pazzesco a inizio di ottobre a Bariloce, che non è proprio un posto centrale di quel continente, no. E erano un numero tipo 30.000, una cosa del genere. Beh. Sì, no, ma appunto io volevo tornare su questa cosa, perché ovviamente poi costruire un evento del genere con una maratona radiofonica, un pomeriggio, sì, con radio aperta a tutte e tutti per conoscere la radio e conoscere le donne che partecipavano, un dibattito invece nella sede di una rivista. Più o meno in zona centrale, o meglio a Lava Pies, che è uno dei miei quartieri preferiti, eccetera, ci vogliono delle forze, bastano due. Certo. Per fortuna appunto con questo rapporto un po' con diverse donne, diverse strutture, eccetera, eccetera, ovviamente la cosa è stata possibile. Per cui, come diceva prima Marta, la compagna che ha preparato il mojito, piuttosto altre donne che hanno preparato una cena benefit per il Salvador, che è stato recentemente vittima di una alluvione, lì insomma le cose sono un pochino diverse, il mercatino e quant'altro. Quindi insomma la collaborazione, come anche la collaborazione di in alcuni orari di alcune trasmissioni fisse della palinsesto di Radio Vallecas, alle quali però è stato chiesto di intervenire specificamente proprio sulla giornata della radio femminista. E quindi proprio in apertura, quando noi abbiamo fatto la prima ora dalle 11:30 alla mezza di questa maratona, è stato anche bello poter confrontarsi immediatamente con delle ragazze molto giovani che sono entrate da poco in radio, hanno il loro spazio, e parlare un pochino, quindi attraversando le età, le reti geografiche, perché era con noi anche una compagna austriaca, come dicevo prima, e quindi c'è stata un'apertura. Voi non avete visto la faccia di Marta in questo momento, che esprimeva entusiasmo profondo per questa donna, che tra l'altro ha detto che ci verrà a trovare, per cui insomma aspettate di Radio Orange, perché di Radio Orange. Sì, perché poi lei era la più grande, cioè è stata proprio in questi giorni, lei era il centro, e poi è arrivata, io casomai sono un po' io che so così, pare brutto, però era proprio austriaca, cioè le prime due ore era proprio austriaca, cioè tutta un po' rigida, e poi la prima sera si è lasciata andare, è diventata proprio, è stata proprio lei, diciamo, quella di questi giorni, era Elga, la mitica Elga di Radio Orange. Grande, allora ci ascoltiamo due spottini che avete portato, un pochino di musica e poi torniamo a parlare dell'incontro. Las mujeres decidimos, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no interviene. De octubre, Día de la Radio Feminista. ¡Ole, ole! ¡Asa, asa! ¡Las mujeres nos vamos de marcha! ¡Tomando la calle en medio de la noche y a ver lo que pasa! Sacaron a Estás escuchando la programación especial del 21 de octubre, Día de la Radio Feminista. Revolución en las calles, en las casas y en las camas. En tu organización, colectiva o movimiento, ¿han producido audios feministas con perspectiva de género o que recojan las voces y realidades de las mujeres? ¿Les interesa difundirlos, compartirlos e intercambiarlos? Te invitamos a sumarlos a la Biblioteca Sonora. Escribinos a centronosotrasargentina@rednosotrasenelmundo.org. Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. E allora abbiamo mandato degli spot e anche uno sulla Biblioteca Sonora. Che cos'è? Sì, insomma, per dare così un'idea dell'apertura, insomma, e della voglia di fare di questa rete, cioè appunto sul loro sito rednosotrasenelmundo.org. Vabbè, poi alcune cose appunto hanno più una connessione verso l'Argentina. Comunque c'è la Biblioteca Sonora che appunto dà la possibilità a tutte di uploadare la propria trasmissione, il proprio audio, che verrà poi appunto messo in questo palinsesto virtuale che io oggi vi devo portare e non vi ho portato e che comunque appunto poi si può ascoltare, ed è quello di cui parlavamo prima, per cui insomma le trasmissioni a disposizione poi possono essere tranquillamente usate da tutte. E vuoi dare l'indirizzo? Ah no, basta, l'ho dato io. Sì, basta andare sul sito principale che è rednosotrasenelmundo.org, come hai detto giustamente anche tu. E poi fra le voci nel menu principale, nella parte alta, c'è scritto proprio Biblioteca Sonora e subito accanto c'è Su e tu audio, che appunto per chi non mastica lo spagnolo, io sempre... Uploada il tuo audio. Significa praticamente, certo. Esattamente, uploada il... Perché noi in questa parola italianissima che usiamo, uploadare, si possono caricare gli audio. Audio e quindi partecipare. Del numero degli audio già caricati si è perso il conto praticamente. Ormai. Però mentre si davano questi numeri durante l'incontro di presentazione della Red Nosotras nel Mondo, che c'è stata, dicevo appunto, nei locali della rivista Diagonal, si ricordava che al momento sono ben 40 le trasmissioni che partecipano invece al palinsesto, con una partecipazione internazionale, così come è stato 40 sono tante. Sì, e appunto infatti è una cosa che si sente, perché come dicevamo mentre c'era la musica, sebbene non fossimo un numero esorbitante presenti a Madrid il 21 e il 22, la presenza si sentiva durante la maratona, che appunto era di 24 ore, quindi poteva comprendere temporalmente anche l'altra parte del mondo. Ci sono state le telefonate dal Salvador, dal Guatemala, hanno partecipato un sacco di compagni e compagni di chi stava ai cortei e chiamava dal corteo alle 2 di notte, insomma, appunto dal Salvador, come dicevi, loro appunto stanno facendo questa grande campagna per raccogliere i fondi, devono andare in Salvador, che è un paese piccolissimo, è stato da capo a piedi devastato da questa alluvione, e loro lì hanno delle donne in rete, quindi l'iniziativa insomma era collegata, le donne lì hanno portato da mangiare, insomma si sono aggiunte alla festa. Però veramente si sentiva la presenza, nonostante fosse diciamo mediatica, delle compagne dall'altra parte, cioè la costruzione era sentirsi era proprio in un gruppo molto più ampio. Sì, si vedeva anche che c'era un grosso lavoro dietro, perché poi il palinsesto era proprio con la griglia schedulato come si deve, da quest'ora a quest'ora ho la partecipazione, sì. Quindi come dicevamo prima, sia con dei contributi registrati sia anche con delle dirette e questi collegamenti. Mi piace anche ricordare la presenza di compagne basche con una radio che si chiama Anceta Erratia, che è pure una radio insomma che ha parecchie collaborazioni con Madrid e di cui, se non erro, appunto una parte del contributo era proprio in basco, ritornando sul tema delle lingue e del riconoscimento della lingua. Quindi voi vi siete fatte questa maratona di 24 ore dentro Radio Valleca, ascoltando e praticamente festeggiando, sì, i contributi che venivano messi o arrivavano. Sì, era bellissimo. Poi comunque voglio dire, si intessero le azioni, allora casomai c'è stata la cosa un po' frustrante di sentirsi fare un sacco di domande sulla situazione in Italia, che succede, ma veramente è così. Poi loro lì hanno la Cinco, che comunque è un canale sempre di lui, e però voglio dire, loro giustamente dicono: no, ma qui io l'ho vista quella di Elena, ma qui quel livello, nonostante sia un canale triste, non si raggiunge, perché comunque ci sono delle ci sono degli ostacoli che non glielo permettono. Quindi insomma, questo è stato un po' frustrante, no? Perché poi appunto è una città in pieno movimento, noi passeggiando abbiamo trovato un hotel occupato con tutti i manifestini fuori, così siamo entrate praticamente il 15 ottobre dopo il corteo, c'era questo dietro Porta del Sol, c'era questo hotel abbandonato, che è uno dei il cui padrone è uno dei grossi speculatori di Madrid, e loro dopo il corteo sui bucali hanno occupato questo hotel, che è praticamente nuovo, sta benissimo, potrebbe essere tranquillamente usato, e stavano lì. Allora siamo andati a fare un giro, le domande che piovono sono un po' quelle. Poi però spesso appunto di repente accanto a queste domande usciva fuori invece la, diciamo, la conoscenza storica fuori dall'Italia, invece della portata del femminismo italiano, perché questo anche appunto chiacchierando con gli studenti sono cose che hanno tirato fuori, per cui ecco, cioè avevamo questa... cioè, riuscivamo anche a parlare di noi sotto un'altra ottica, ecco. E poi vabbè, tra l'altro, non so se vogliamo raccontare l'incontro con questa filosofa, tra le varie interviste che ci sono state, diciamo, all'introduzione durante la giornata della maratona, quindi il dibattito, era presente questa filosofa di studi di genere dell'Università di Madrid, Montserrat Galceran, si chiama, perché lì nomi proprio zero, e lei appunto raccontava che lei aveva partecipato al movimento dell'Indignados e che insomma sottolineava che chiaramente appunto, penso che ne avete parlato anche voi, comunque questa cosa insomma si è saputa che a un certo punto tra gli interventi c'è stato l'intervento delle compagne, che appunto hanno posto la questione che la rivoluzione doveva essere femminista, altrimenti non sarebbe stata una rivoluzione, che chiaramente lì nonostante fosse un movimento con tutto un tipo di apertura così, si è posto l'antico problema. Sì, questo poi però lei diceva comunque ha prodotto un documento che si può leggere, un dossier, comunque ha scatenato una riflessione, quindi lei sottolineava questo di buono, però insomma dall'altra parte riconosceva appunto, diciamo, un po' l'essere progressista di questo movimento, però poi ecco, esatto, diciamo sempre, no? Lì, quindi lei sottolineava come fosse necessario invece l'assunzione di responsabilità e anche non pensare che determinate cose siano delegate esclusivamente alle donne, ma che fossero necessarie delle riflessioni più a livello globale, così come quello che noi ormai diciamo storicamente da anni e anni e anni, che non si può posporre la questione di genere, sì, prima facciamo la rivoluzione, appunto, per questo la rivoluzione sarà femminista. Tra l'altro appunto la riflessione sulle forme di machismo all'interno del movimento stesso è una cosa abbastanza viva in questo momento in Spagna, tant'è che ci sono, non solo in Spagna, diciamo in generale nei anche paesi, Grecia, sappiamo che insomma ci sono compagne organizzate che sono intervenute esattamente come le spagnole, insomma, ricordare che evidentemente si aprono anche fronti di conflitto su questo da sempre. Assolutamente, e che però anche a livello di letteratura, quindi di testi che stanno girando nei paesi ispanofoni, quindi anche in Argentina per esempio, si sta sottolineando molto, quindi sta facendo un'analisi di quelle forme che vengono chiamate di micromacismo all'interno del machismo movimento a bassa stesso. Intensità, diciamo. Sì, quelle piccole forme che quelle lì che molti uomini ti risponderebbero: ma che paranoica sei, ma perché ci vuoi vedere del maschilismo per forza, no? E invece è un dibattito abbastanza vivo. Devo dire la verità che addirittura uno di questi documenti, che poi ho scoperto essere un testo di quelli proprio importanti che stanno girando, e che è il semplice titolo banalmente di micromacismo, di un autore maschio tra l'altro argentino, mi è arrivato proprio da un collettivo che non era di donne e che però appunto sta circolando molto, e anche le compagne lo hanno riconosciuto come un testo sicuramente valido e come un testo importante. Evidentemente, certo. Sì, sì. E quindi abbiamo avuto un momento di riflessione. Allora, mentre noi facciamo mente locale, perché effettivamente sono tantissime cose, sono stati giorni evidentemente molto intensi, ascoltiamo ancora altri due spot andati durante la maratona. Todas las niñas embarazadas fueron violadas. Revolución en las calles, en las casas y en las camas. y prohibiciones que van en contra de nuestra paz y de nuestro real respeto. ¿Hasta cuándo leyes federales van a condenar nuestras más inofensivas costumbres naturales? De momento decretemos también, decretemos, respeta la vida, el amor, la paz, respeta el oxígeno, la salud, las canas, respeta el cuerpo y mente que fluyen, respeta a quienes son dueños de su palabra y no necesitan de labra catabra de pierna para lograr sus sueños, y ponen su empeño y no tienen dueño. Respeta la creación, la diversidad, como las frutas son frutas, las hierbas y flores son hierbas y flores, los animales tienen familia, se les respeta, respeta. A pesar de los machazos han seguido aquí dándose trastazo en esta comunidad donde hay tantas cuestiones por superar. No todo está mal, pero así no es fácil ni respirar. Respeta a quienes no están a los más corrientes decadentes de estos días. Proponemos nuevos retos, difíciles vías. Metía, el dueño quiere estar metía, que el minuto corre, que la vida es mía. Metía, es lo que yo quiero estar metía, aunque no coincida con la mayoría. Metía, es lo que yo quiero estar metía, que el minuto corre, que la vida es mía. Metía, es lo que yo quiero estar metía, aunque no coincida con la mayoría. Educa a quien todo el tiempo se toca el pecho diciendo yo. Seas de donde seas, se educas. Si la vida te va linda y más, muestras cómo vienes, cómo vas. Educa a un clan de gritones y lindones, hablando a estas alturas de por y prendezones. Educa si usas lo real para tu imagen comercial. No ofrendo a quien educa flores, porque educar no es buscar éxitos, ni aplausos, ni dinero. Quien educa no es ningún cabezayuca. Quien educa enseña a perder con paciencia. Quien educa convierte en amor la violencia. Educa a quien no está, educa a quien parió, educa a quien se enfermó, educa a quien se murió, educa el tanque que se jaló, educa la poesía, educa a quien entendió que el mundo en mucho no sirvió y se fundió y está fundido, fundía, está metido, o metía, ¿oíste? Metía, el dueño quiere estar metía, que el minuto corre, que la vida es mía. Metía, es lo que yo quiero estar metía, aunque no coincida con la mayoría. Metía, es lo que yo quiero estar metía, que el minuto corre, que la vida es mía. Metía, es lo que yo quiero estar metía, aunque no coincida con la mayoría. Sacúdete de lo que no te aporta, sacúdete de lo que no te beneficia, sacúdete de la malicia de quien no te soporta, sacúdete de la clase y de la explotación, sacúdete del descaro y de la manipulación. Sí, hay momentos de desesperación y aturdimiento, pero siempre cerca de ti algún detalle te salva, te guía. Rántala, no la dejes escapar, somos nosotras, reactivistas sativa, nosotras que luchamos contra todo lo abominable y a favor de la felicidad infinita. Felicidad infinita en la que se cuela hasta en los sitios más tristes, en las personas más desahuciadas. Escúchala, búscala, proporcionatela, cualquiera la tiene y te la pasa, te la pasa. Metía, es lo que yo quiero estar metía, que el minuto corre, que la vida es mía. Metía, que es lo que yo quiero estar metía, aunque no coincida con la mayoría. Metía, es lo que yo quiero estar metía, que el minuto corre, que la vida es mía. Metía, es lo que yo quiero estar metía, aunque no coincida con la mayoría. Metía, es lo que yo quiero estar. Mira, con las crudas no te vayas a cruzar. Metía, es lo que yo quiero estar. Y que pase lo que tenga que pasar. Metía, es lo que yo quiero estar. Recógeme, mastica y acabe de tragar. Metía, es lo que yo quiero estar. Metía, es lo que yo quiero estar. Metía, cruda representa a la mujer jodida. Metía, es lo que yo quiero estar. Metía, soy pelusa, la lírica es mía. Metía, es lo que yo quiero estar. Metía, haciendo estreche con tus habladurías. Metía, es lo que yo quiero estar. Metía, yo agresiva y tú partía. Metía, es lo que yo quiero estar. Metía, todo esto que cuento es experiencia vivía. Metía, es lo que yo quiero estar. Metía, garantía. Metía. ¡Oye! Estás escuchando la programación especial del 21 de octubre, Día de la Radio Feminista. No, no, no, no panic. Semanalmente publicamos una boletín informativa que recoge las actualizaciones de la Biblioteca Sonora Digital y que es ofrecida como fuente informativa a más de 8.500 suscriptoras y suscriptores. Hombres, siempre buscando poder, nosotras no. Nuestro H es ser mujer, tenemos nuestra cueva. Y que afuera llueva, llueva. Te lo advierto, desde ahora voy a luchar recrudeciendo poesía. Voy a seguir dándote más de la mía. Voy a esperar que me entiendas algún día. Voy a decir y tú, y tú, y tú me van a oír. Ya, ya, ya. Ya me cansé de ser la momia, mi lengua en la ceremonia. Pa' que te quede hacer. E allora torniamo in diretta, stiamo parlando di questo 21 ottobre, giorno della radio femminista, a cui Marta e Zanzara hanno partecipato e appunto ci stanno raccontando, si è tenuta a Madrid. Allora, che altro vogliamo dire? Da dove vogliamo cominciare? Io comincerei da questo, insomma, da questa chiamata all'attenzione per queste compagne che stanno subendo un problema. La Spagna ci assomiglia tanto, soprattutto per il peso e la presenza della Chiesa. E infatti vi vogliamo parlare di un collettivo. Sì, esattamente, di cui al momento non troviamo i riferimenti web, ma io spero di riuscire, anche perché abbiamo incontrato una compagna italiana. La cosa divertente, apro e chiudo parentesi, è che in realtà di questo nucleo fortissimo di donne prese bene, pronte a fare comunicazione eccetera eccetera, fossimo assolutamente internazionali, proprio anche lì presenti, quindi donne che girano, viaggiano eccetera eccetera. Per cui insomma spero di riuscire a recuperare anche delle informazioni ulteriori, però nella stessa giornata in cui noi avevamo la maratona radiofonica, in un centro sociale si è fatto un benefit per un collettivo di donne che sono andate a fare un'azione in una chiesa, spogliandosi all'interno della chiesa, quindi naturalmente levandosi la maglietta. Esatto, per, come immaginerete, per criticare ovviamente le politiche e l'influenza della chiesa anche da quelle parti, come sappiamo molto bene e come si è visto durante i secoli di storia. E a questo, al momento queste donne sono sotto processo per sacrilegio. Per sacrilegio. E quindi, che in Spagna non è proprio l'ultimo dei reati, e quindi insomma noi pure insomma, poniamo l'attenzione su questa cosa, perché insomma ecco, sempre Spagna è. Esattamente, quindi insomma si sta cercando di creare anche un po' di spazio, di sensibilità intorno a loro, e devo dire la verità che secondo me è una cosa abbastanza sentita, perché poi girando per il banchetto informativo, una cosa molto carina si fa la domenica a Madrid in piazza Tirso de Molina, lo dico tipo guida turistica, esatto, alternativa, yes. Che in questa piazza che è molto centrale, metà della piazza è tutta occupata da infoshop, banchetti informativi dei diversi collettivi, per cui una compagna o un compagno che volessero approcciare anche un po' i movimenti possono andare lì e trovare molte informazioni, molti materiali, è e è anche un luogo d'incontro, e lì si parlava moltissimo di queste compagne, cosa. Si distribuiva il materiale, insomma si cercava di metterlo in luce, quindi io diciamo ne abbiamo voluto parlare anche un po' per lanciare un input, per fare in modo che magari riusciamo ad entrare anche in contatto con chi le sta seguendo personalmente, poter riparlarne magari qui all'interno del martedì. Sì, sì, poi un'altra cosa che vogliamo dire che si può trovare molto interessante del collettivo, che sta sul sito del collettivo Renosotras, che è appunto una campagna, quindi un piccolo manuale che viene messo sull'home page, se guardate mi pare in alto a sinistra, che è praticamente un piccolo manuale per l'aborto con pastillas, lo vedete, c'è l'arcobaleno in rosa, tutto lo che chiede saper sobre come hacerse un aborto con pastillas, quindi chiaramente. Poi appunto noi abbiamo subito notato questa cosa, chiacchierando, è chiaro che poi è una campagna che si fa perché non è che la pillola poi sia poi così presente sul territorio, insomma fa parte chiaramente della lotta che ben conosciamo. Non lasciamo perdere la nostra di situazione, dovremmo anzi lanciare, prendere spunti e idee, va. Esattamente. Sì, esattamente, e a questo legherei il fatto che appunto il 28 in Latino America è la giornata per la depenalizzazione dell'aborto, anche in Latin America, lì dove i paesi ce l'hanno, ad esempio la Colombia ha una legge che regola l'interruzione di gravidanza, dopodiché insomma questo non significa praticamente nulla, perché sia per come è costituita la popolazione del territorio colombiano, sia per quella che poi è il livello di sanità pubblica in Colombia, questa legge è come se non ci fosse praticamente per la stragrande maggioranza delle donne, e questo è un po' un copione lì dove la legge c'è, e poi ci sono anche i posti dove assolutamente queste leggi mancano. Sì, e quindi invece ritornando all'Argentina, perché poi in questa pubblicazione è una pubblicazione argentina che è anche abbastanza diffusa diversi collettivi, tant'è che era la versione in libro vero e proprio, era anche in distribuzione presso le donne del Frente Popolare Dario Santillano quando sono venute qui in Italia per un incontro che si è tenuto l'inverno scorso, anche che si ricorda che appunto in Argentina è ancora penalizzato, quindi non è stato ancora depenalizzato l'aborto, c'è una campagna molto molto forte a cui partecipano veramente in tutto il paese e a fronte di circa 500.000 aborti annui, e che potete immaginare anche in quali condizioni. L'aborto in realtà si fa, si tratta solo di prenderne atto, perché qua non è che uno decide più o meno se si fa o no, l'aborto si fa, insomma le donne lo fanno e quindi evidentemente c'è niente da discutere. Quindi volevo anche ricordare che per chi fosse interessata, questo testo è scaricabile online proprio sempre dal sito di Red Non Suotra Se Nel Mondo, un PDF che non pesa nemmeno troppo, per cui visto che adesso non voglio ripetere a dire se sapete lo spagnolo, per migliorare le vostre conoscenze dello spagnolo, invece di leggere la solita storiella o la Celestina, andate a leggere questo bel trattato. Perfetto, utilissimo. No? Come no? Quindi, vabbè, questo sito racchiude tutti questi contributi di cui stiamo parlando, da appunto il palinsesto virtuale a una quantità ormai innumerevoli di file audio che vengono uploadati, e quindi anche un database sicuramente prezioso. Poi è facile, scusa, proprio questo è facile anche contattare le altre radio, perché praticamente dal palinsesto, sul palinsesto c'è scritto anche quale gruppo e di quale radio viene messo in onda, c'è il link, quindi si apre proprio un mondo. Sì, è importante sia per dare visibilità alle donne, che poi appunto si scopre che sono moltissime, poi la radio è un mezzo che piace molto, perché insomma rispetto al video a noi piace parlare, diciamo. Esatto. È anche meno imbarazzante, e nessuno te lo taglia. Esatto. E se te lo taglia, lo tagli tu. È quello, perché siamo fortunate a stare a Radio Onda Rossa, se no hai voglia a tagli. No, quindi insomma è senz'altro interessante, invitiamo ad andare a visitare questo sito, lo faremo anche noi senz'altro. Poi posso dire una cosa in diretta, così siete fregate. Abbiamo detto la cosa dei Sahrawi, vabbè. La diremo così, la che diremo. Tanto siamo in fase finale, visto che sto guardando l'orologio, ormai sono stata influenzata dalle compagne che hanno la griglia che alle 10.32 fino a 10.35, per cui cercherò di fare così anche io. Almeno controlli me, che sono quella che sfora sempre. E quindi sto per incastrarvi, perché ovviamente noi siamo andate, ma abbiamo parlato tantissimo del martedì, come non potevamo non farlo ovviamente. Avevamo prima parlato con voi, insomma, per chi ci sta ascoltando, per chiarirlo, perché non si sa mai. Eravamo tutte d'accordo. Insomma, vogliono assolutamente includere il martedì nel palinsesto di Red Non Suotra Se Nel Mondo, e al momento l'idea è di costruire la prossima giornata tutte quante insieme. Si vedrà se appunto andiamo virtualmente o con incontro. Andare in Argentina sarebbe veramente l'ideale, però insomma, vediamo un po'. Comunque insomma l'idea è molto forte, quella di voler includere anche le compagne italiane in questo progetto, per sì cui... sì, ma ora l'incastro è a doppio senso, lo sapete, non è perché ora ci siete voi, perché è vero che noi conosciamo insomma quella realtà, abbiamo anche ogni tanto avuto negli anni scambi e incontri, però ci manca, diciamo, sta capacità a tenere relazioni così distanti, invece benissimo. E tra l'altro è anche utile, perché insomma, diciamo, bisogna guardare un po' fuori all'orticello di casa. Lo spagnolo è un ottimo veicolo di conoscenza del mondo come lingua, per cui sì. E insomma, riuscire a costruire insieme dal basso e anche con quei pochi mezzi economici, senza dover avere sponsor né padroni né padrini, come diciamo sempre a questa radio, trovando i propri mezzi per finanziarci. Questo è un assist per raccontare appunto un aneddoto che volevamo portare qui e che ci hanno spiegato un po' che ci è stato raccontato, no, dalla Red Non Sotras. In particolare per quanto riguarda Cordova, c'è una compagna che ha preso particolarmente a cuore la questione dei Sahrawi e che è stata più volte, quindi ha attraversato questa famosa pozzanghera per fare documentazione. Dice: ma questi soldi come li prendo? Ha vinto la lotteria. Ha vinto la lotteria, e tra l'altro in un momento in cui il gruppo di donne appunto stavano, non avevano i soldi per pagare la sede, avevano la radio web, ma stavano proprio inguaiate, lei ha vinto la lotteria incredibile, appunto, ha fatto il miracolo, ha subito collettivizzato una grande, e appunto è partita, è andata. C'è stato un momento di... Ha fatto delle foto, è tornata, ci ha costruito sopra tutta una bellissima cosa, però appunto, dai, proviamo. Non male, dai, i sogni si possono avverare nei modi più assurdi. Assolutamente. Va bene, allora noi se non c'è altro da aggiungere, forse ricordiamo di nuovo il sito. Il sito è rednosotrasenelmundo.org. Perfetto. Per cui potete andare lì e ascoltare un pochino la radio, i vari programmi. Abbiamo detto probabilmente ci sarà anche qualcosa il martedì, di qui a brevissimo. E così per informarsi, e visto che appunto, come dicevamo prima, con la biblioteca sonora c'è anche la possibilità di partecipare, magari qualche donna che non ci stia ascoltando da Roma, per cui non ha la possibilità di venire qui a Via dei Volsci e partecipare al progetto del martedì, però magari abbia voglia di raccontare qualcosa nel suo territorio, eccetera eccetera, ormai certo, la tecnologia lo consente e quindi può partecipare a sua volta senza farsi problemi sul fatto che sia in italiano, perché questa cosa abbiamo detto che non è un problema per nessuno, riusciamo la a superare, non è esatto, per la nostra storia abbiamo dovuto superare tante barriere, altre ne abbiamo avanti, figuriamoci quella linguistica, non ci fermerà mica. Benissimo, dai, e diciamo che con questo ci salutiamo, ovviamente speriamo di riaggiornarci con qualche novità da quelle parti, e mandiamo ancora qualche spottino di questa bella iniziativa. Grazie, a presto. Grazie, grazie a voi, un saluto. Ci si vede presto. Ciao. Ciao. Ciao. Desde que el 21 de octubre, hace ya un año, nos encontramos en Viena, supimos que eso no quedaría en un solo día. Esas 24 horas intensas, sin silencios, con nuestra música, fluyendo palabras incansables de contárnoslo todo, recorriendo libres nuestras lenguas. Ahora te espero en Madrid. ¡21 de octubre! Día de la Radio Feminista. Maratón radiofónico de 24 horas. Emitido desde Radio Vallecas y en www.rednosotrasenelmundo.org. En todas las lenguas que quieras expresarte. Estaremos en las redes y las ondas. Si quieres sumar tu voz, escribe a nosotrasenelmundo@radiovallecas.org. 21 de octubre, Día de la Radio Feminista.